tutto facile. E Dio, secondo te, ti dovrei credere quando dici che lui non conta più e lo scorderai insieme a me. Ma 2+2=5 nei pensieri tuoi. Se credi che il passato non sia qui tra noi. Se non ti vedessi quando lui ti guarda, se non ti sentissi quando tu ne parli, come sempre un'altra, come sempre solo. Non restare qui, non restare qui, è tutto inutile, è tutto inutile. Io non sono lui, non voglio esserlo. Quando guardi me vuoi sorridere, inventare quello che non c'è. Ma 2+2=5 nei pensieri tuoi. Se credi che il passato non sia qui tra noi. Se tu ti vedessi quando lui ti guarda, se tu ti sentissi quando tu ne parli, come sempre un'altra.